sole cosca la ragazza tua. Chi cazzo vuol? Guardo le cosce alla ragazza tua. Chi cazzo vuol? Figlie puttana, figlie puttana, figlie puttana, figlie puttana. Fucking bitch, fucking bitch, fuck you, bitch. Fucking bitch, fuck you, bitch, fuck you. Ha ha ha.